tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tanti bei gol da Girardino a Floro Flores, il mio preferito in assoluto, a Eto'o, Hamsik, Mannini, ma altri ancora. Un capocannoniere di Natale che viaggia alla media di Battistuta con 6 gol in 3 partite, sia pure con l'aiuto di 2 calci di rigore, che però bisogna saperli segnare. Il bel calcio del Genoa, sempre più perentorio, sempre più mandato a memoria. E dall'altra parte le prime polemiche arbitrali, il comportamento incivile degli ultrà di Siena nei confronti di De Rossi. Se andiamo all'estero, anche quello, comportamenti intendo, quello irresponsabile di Adebayor del Manchester City, ex Arsenal, che potrebbe fruttare, io spero, una squalifica esemplare. Non si va dopo un gol, non si traversa il campo di corsa in maniera ostentata e plateale per andare a sdraiarsi di fronte alla vecchia tifoseria, provocandola e causando direttamente, non indirettamente, il ferimento di alcuni steward per placare la furia del pubblico, che ovviamente reagisce a quel tipo di provocazione. Sono cose che in Inghilterra dovrebbero costar care, speriamo che costino così ad Adebayor. Tutto questo e molto altro ancora, mentre incombe il ritorno in Europa con questa triplice sfida italo-francese che riguarda Juventus, Milan e Fiorentina, e il clou a San Siro di Inter-Barcellona. Qualche numero per cominciare: beh, intanto è stato eguagliato il record di vittorie esterne in Serie A dopo 3 giornate, perché siamo a 11 vittorie fuori casa su 30 partite, sono tante, non accadeva dal 1929-30, cioè dal primo campionato della storia a girone unico. Erano state poche alla prima giornata, 2, e poi 5 alla seconda e 4 alla terza. E poi vi dicevo, oltre la Juventus che ha già effettuato e ha già vinto le 2 trasferte a Roma, questo è un dato da tenere molto presente nella proiezione della stagione, la vittoria della Sampdoria, che a sua volta ha già vinto 2 volte fuori casa. Ieri, anche un po' fortunosamente, è stato Del Neri il primo a riconoscerlo, perché all'Atalanta è girato tutto storto, ma non c'è dubbio che la Sampdoria, oltre al Cassano che abbiamo imparato a conoscere e a un buon telaio di base, abbia anche un grande portiere. Ieri lo ha riconfermato per l'ennesima volta Castellazzi, è probabilmente il portiere più in forma, o comunque uno dei più in forma della Serie A, oltre ai mezzi fisici e tecnici che possiede. Anche Mirante, il portiere del Parma a San Siro, si è fatto valere, come, è un altro che sta debuttando in Serie A con grande successo, al di là degli insuccessi della squadra, è Viviano, quello del Bologna, che certamente non possono essere imputati a lui i risultati negativi del Bologna. In attesa dei vostri interventi, come sempre, all'800 24 00 24, io comincerei proprio dal Genoa, che insomma, per il fatto, lo si diceva già la settimana scorsa, ne abbiamo parlato lungo anche con Gasperini, ma insomma una squadra che cede Thiago Motta e Milito, cioè i suoi due assi, e l'anno dopo riparte come niente fosse, anzi, merita un'analisi un pochino più approfondita. Allora sentiamo Gasperini su questa tumultuosa partita con il Napoli. Noi avevamo la convinzione forte di poter far bene, di vincere la gara. Infatti questo episodio ci ha messo un po' in difficoltà. Io speravo riuscissimo a finire il primo tempo in pareggio, non eravamo riusciti, e forse anche perché siamo una squadra nuova, non ci eravamo mai trovati in inferiorità numerica e difendevamo non bene, e speravo di arrivare all'intervallo. Però devo dire che loro erano caricati di falli, soprattutto i difensori. Noi avevamo un passo superiore, avevamo la possibilità di metterli in difficoltà e avevamo un grande fiducia di poter vincere la partita. Mi sembra che dopo 3 giornate sia, insomma, non si può, anche se è chiaro che la rivalità cittadina è importante. Penso che questo faccia bene un po' a tutta la città, perché è una città che vive di grande passione. Tra tutte e due le tifoserie ci sono 45.000 abbonati. Infatti è indubbiamente il momento di Genova. Andiamo avanti con i numeri, perché come sempre in questi casi raccontano meglio di 1000 discorsi. Allora, per arrivare a 3 vittorie consecutive nelle prime 3 giornate della Sampdoria bisogna risalire all'82-83, quando la Sampdoria vinse, pensate, 1-0, rifilò nelle prime 3 giornate, vinse 1-0 con la Juve, 2-1 in casa dell'Inter e 1-0 con la Roma. Per il Genoa bisogna tornare al campionato 32-33, ma le vittorie di allora furono contro, con tutto rispetto, contro Triestina Pro Patria e Casale. Entrambi quei campionati finirono al settimo, con piazzamenti non straordinari, settimo posto per la Sampdoria, ottavo per il Genoa. Quest'anno io penso che possano ambire tutte e due qualcosa di più, e certamente in ogni caso un momento così Genoa dal punto di vista calcistico non l'aveva mai vissuto collettivamente, sommando le due squadre e le due tifoserie. C'è ancora una voce di Gasperini che commenta l'episodio di Criscito, dell'espulsione di Criscito. Sentiamo. Io sono entrato arrabbiatissimo col giocatore, perché se è vero che aveva mandato, insomma, col paese l'arbitro, era giusta l'espulsione, e su questo non ci sarebbe stato nessun dubbio, perché sono assolutamente d'accordo che queste manifestazioni nei confronti degli arbitri vadano punite. E lui mi ha detto che c'è stata un'incomprensione, poi io non ho ancora visto un'immagine, ero molto lontano, e prendo la versione del ragazzo dove dice che ha preso una brutta botta, e questa espressione lui l'ha fatta riferita alla botta, cioè non l'ha preso, ecco, allora, poi, nei confronti, se... e non nei confronti dell'arbitro. Beh, insomma, un insulto alla botta è abbastanza singolare come cosa. È vero che sono reazioni vagali, perché quando prendi un colpo comunque con quel livello di tensione un baffa può scappare. È anche vero che da regolamento, se scappa nella direzione in cui c'è il signor arbitro, che il signor arbitro sia vicino o lontano, e ieri sera era lontano, se l'arbitro lo capta non c'è dubbio che la sanzione vada applicata. Quindi da regolamento Tagliamento fino a lì, secondo me ci sta, e come, è da lì in avanti che ne combina peggio di Carlo in Francia, veramente denotando una scarsa personalità, perché insomma è stato il furore di Marassi non dico a imporgli, ma insomma a condizionarlo, e poi fino a portarlo a quel clamoroso errore di un rigore, un'espulsione, quando invece il fallo era stato commesso da Sculli, e cioè dal giocatore del Genoa. Un fallo anche volendo essere cattivi, anche con un pizzico di simulazione incorporata. Ci sono già degli ascoltatori in attesa. Gasperini poi ha parlato anche delle ambizioni legittime, ma anche di qualche sogno un po' troppo in grande. Mi fanno domande assurde, ha detto, su Scudetto e Champions League. Noi pensiamo a ogni singola partita e poi si vedrà. Però proprio l'allenatore che prima di Gasperini, ormai quasi 20 anni fa, aveva risvegliato gli entusiasmi genovani, e cioè Osvaldo Bagnoli, dice invece: per me il Genoa primo non è una grande sorpresa, non mi stupisce, perché già l'anno scorso si era visto che il Genoa era una squadra con delle basi molto solide. Ha venduto due giocatori importanti, dice ancora Bagnoli, ma la società li ha sostituiti al meglio. Credo che possa anche lottare con Inter e Juventus. Deve crederci, perché la storia è fatta di sorprese, come lo fu il mio Verona nel 1985. Queste sono le parole di stamane di Osvaldo Bagnoli. Attenzione alla parità di trattamento tra Zena e Doria, perché da quelle parti la rivalità è ancora più accesa che altrove, e quindi il commento alla partita e alla prestazione di Cassano da parte di Del Neri. Abbiamo vinto anche un po' di fortuna, per la fine i due pali dell'Atalanta probabilmente meritavano qualcosa in più, però la squadra ha giocato in 10 per quasi 45 minuti nel secondo tempo, sta capace di fare gol, sta capace di mantenere in campo due punte di ruolo, e quindi penso che la vittoria poi tutto sommato non sia poi rubata. Io penso che quello che sta facendo la Sampdoria, di cui Cassano è un suo giocatore, sta dando molto alla squadra, la sostiene, l'aiuta e mette le sue qualità a disposizione della squadra, mentre solo questo, poi se Lippi lo convoca bene, se non lo convoca ce lo teniamo stretto. E la sua nazionale sarà la Sampdoria. In genere in questi casi si usa dire così, lo si è detto tante volte per le esclusioni eccellenti del passato. Tocca a Stefano dalla provincia di Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Niente, io volevo parlare del comportamento di Mourinho ieri, che è uscito 5 minuti prima della fine del primo tempo. Un minuto e mezzo, non lo so, forse qualcosa di più. Ma a parte un minuto e mezzo, lui è un signore che guadagna 24.000 euro al giorno, voglio dire, deve avere anche un certo comportamento. Lo scorso campionato è stato espulso insieme all'allenatore Sampdoria, dove Sampdoria ha subito una giornata, lui no. ogni volta che subisce qualcosa dagli arbitri aggredisce il quarto uomo. Praticamente non so se esistono le condizioni per un provvedimento disciplinare per comportamento antisportivo, perché a me non è mai successo, anche se sono stato molto in altri campi, che un allenatore esca prima della fine della partita. E ora che si prendono dei, a parte voglio dire che lui nelle interviste può dire quello che vuole, ma in campo deve adottare un certo atteggiamento e comportamento che è giusto, ecco. Non sono per nulla d'accordo con lei, Stefano. Questo semmai è un problema che riguarda la sua società. Se in quel momento Mourinho era talmente, io credo, disgustato da come l'Inter stava giocando dalla prestazione pessima di alcuni suoi giocatori, insomma, sappiamo che Mourinho è uno delle reazioni plateali e sempre possibilmente in favore di telecamere, in maniera da, come dire, incrementare da dare ulteriore corpo alla sua immagine, che è la cosa che probabilmente più gli sta a cuore. Detto questo, però, non ci sono adempimenti particolari sulla sua presenza in campo o meno di cui lui debba essere tenuto responsabile. Se, come immagino, è andato in spogliatoio per, che ne so, per preparare la spuriata piuttosto che la lavagna, piuttosto che non so che cosa, la camomilla o altro ancora, insomma, fa parte dei suoi diritti. C'è un secondo che lo sostituisce in panchina, che gli può raccontare cosa succede in quel minuto e mezzo. Giù ci sono telecamere a circuito chiuso, ci sono filmati, ci sono televisori accesi sulla diretta, c'è di tutto. Certo, è un comportamento strano, questo sì, ma che da qui arrivare alle, come dice lei, inadempienze o addirittura sanzioni mi sembra francamente un po' eccessivo. Luca, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto faccio complimenti a Genoa del signor Gasperini, che veramente è un remida in piccola del nostro calcio, considerando che il Genoa è stato retrocesso in un anno di due campionati, cosa che non è capitato ad altre squadre che meritavano. E poi volevo dire che Mourinho può alzarsi e andarsene quando vuole. Non lo può fare sicuramente un giocatore in campo, ma una giocatore, un tesserato in panchina da ex arbitro, io dico che lo può fare senza, certo, mancare di rispetto, poiché abbia gli atteggiamenti, ma lui è provocatore e gli piace essere provocato, e questo, diciamo, tutto sommato alla stampa va bene, magari fa un po' storce il naso anche a noi tifosi interisti, però insomma se i risultati arrivano, come si suol dire, tutto fa brodo e chi si è visto insomma. Certo. Senta, scrive Stefano da Udine, che ne pensa del gol di Floro Flores? Per rapidità e potenza lo definirei del centravanti puro sangue, l'ho detto prima, di tutti quelli bellissimi di ieri, perché è una prodezza quella di Girardino, è una prodezza quella di Eto'o, è un bellissimo gol quello di Mannini, quello di Hamsik, insomma, l'imbarazzo della scelta. Se devo sceglierne uno, credo che il più spettacolare, il più esaltante sia stato proprio quello di Floro Flores, ma lì va a gusti e non credo che sia, e non credo che i gusti, insomma, possano essere discussi più di tanto. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Volevo semplicemente chiedere a lei, il Milan finalmente capirà che giochiamo sempre in 10 o ci vorranno ancora un po' di partite, visto quello che fa in campo il signor Ronaldinho, senza nulla togliere all'uomo, per l'amor di Dio, e che tutte le altre squadre, senza spendere cifre folli, vediamo dove sono. Dario, lei sa che Ronaldinho ha uno sponsor abbastanza importante, no? Sì. Credo, di un discreto peso nell'ambito della società Milan e non solo. Quello è il problema. Quindi mi pare che Leonardo l'ha capito al precampionato, anzi l'aveva capito già l'altro anno, perché essendo un uomo di calcio e di campo un'idea se l'era fatta. Leonardo ha anche provato, come insomma lei ricorderà, anche a dire che non si sentiva di essere un allenatore e avrebbe voluto continuare a fare il manager e l'uomo di PR e lo scopritore di talenti. Gli è stato imposto questo ruolo, gli è stato suggerito autorevolmente, per l'appunto la fonte è sempre quella di prima, cioè lo sponsor è sempre quello di prima, di imperniare il nuovo Milan su Ronaldinho, e lui ci sta provando per un po', adesso mi pare che già dal secondo tempo di Livorno ha cambiato idea, adesso vediamo come va domani sera a Marsiglia e poi nelle occasioni successive. Al di là dei diktat presidenziali, Ronaldinho è oggettivamente impresentabile, ma sa com'è, si attacca l'asino dove vuole il padrone, no? in certe situazioni, perlomeno fino a quando la situazione è sostenibile. Difendibile non lo è già più molto. Vediamo. Gianluca, Genova, buongiorno. Buongiorno Gigi, scusi, cerco di essere più veloce possibile. Io sono abbonato del Genoa e volevo per una volta spezzare una lancia per il calcio italiano per quel che riguarda il pubblico allo stadio. Ieri ci saranno state almeno 30.000 persone, se non un po' di più, e questo credo che faccia bene a vedere appunto questi stadi pieni. Ecco, e per concludere invece per la tessera del tifoso, se non è fuori tema, credo che se nessuno abbia niente da nascondere non ci siano problemi ad avere una tessera del tifoso, ecco. No, no, certo, infatti può essere uno strumento che serve, poi questo è un punto di partenza, poi da lì le discussioni, ma anche le riflessioni prima ancora delle discussioni possono essere tante. Il pubblico del Genoa è un pubblico entusiasta, lo stadio di Genova è uno stadio all'inglese, io continuo a dire che c'è un eccesso di tribalità o tribalismo che dir si voglia nel tifo sia genovano che sampdoriano, ma questo ripeto sono gusti personali e sui gusti a differenza che su altre cose più oggettive io credo che discutere si possa fino a un certo punto. Intendo dire che è stato il pubblico di Marassi ieri sera in buona parte a spingere Tagliavento a quell'errore di compensazione clamoroso. Questo da cosa nasce? Nasce dal fatto, intanto nasce da Siena, se vogliamo raccontarla tutta, perché a me nessuno toglie la testa che dopo che Giampaolo, allenatore del Siena, persona solitamente misurata e cauta sia in campo che fuori, dopo che Giampaolo, diciamo verso le 17:30-18, lancia la segnalazione che insomma, è stato espulso il suo giocatore Codrea, ma in realtà durante la partita Totti e De Rossi verbalmente si sono concessi molte liberalità nei confronti dell'arbitro D'Amato di Barletta, a quel punto o Tagliavento sta alla TV accesa mentre si prepara la partita o fa riscaldamento, oppure qualcuno gli segnala autorevolmente dall'alto che è successo anche questo nel pomeriggio e che quindi bisogna stare un po' più attenti agli eccessi verbali. Puntualmente il soldatino Tagliavento becca l'input, ripeto, che sia diretto o che gli sia arrivato via cavo, anche se oggi i cavi non ci sono più per i cellulari. Prende buona nota, espelle Criscito e da regolamento, anche se il provvedimento è severo e soprattutto inusuale, da regolamento ci può stare, ma poi cosa succede? Succede che c'è un deficit di personalità e quindi di fronte ai tumulti di Marassi progressivamente va sempre più insieme, fino a quando si inventa un calcio di rigore, un'espulsione, ripristinando sia la parità di punteggio che la parità numerica. In quei casi cosa succede? Succede che si somma un errore grave, ma molto grave, a un errore che forse non era nemmeno un errore, quello precedente. Ed è un problema di personalità, perché io sono abbastanza certo che sia andata più o meno così, e sono abbastanza certo che se fosse capitato a Collina, voglio dire, Sculi si beccava anche, non solo non beccava il rigore, ma si beccava anche un'ammonizione per aver cercato di procurarselo ingannando l'arbitro. Pietro ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Mi vorrei da lei questa riflessione, questo commento. A parte invertite, se fosse stata la Juventus a realizzare quel gol che è stato annullato la Lazio, l'arbitro avrebbe permesso di annullarlo? Io credo di no. È ora di farla finita della sudditanza psicologica, questa è pura malafede. Allora, i campionati, le partite vengono falsate, di conseguenza i campionati, il debole, quando c'è una decisione di incertezza, va sempre a favore del potente. Ora è l'Inter, ora è il Milan, ora la Juve, ora la Roma, ma porca miseria, ma è mai possibile che questi altri non devono essere sereni? Che la Roma sia equiparata nel trattamento arbitrale alla Juventus e all'Inter, io capisco che lei sia laziale, ma mi sembra che si sia lasciato un po' prendere la mano. Sul resto, senta, se la mettiamo su quel piano già alla terza giornata, e purtroppo il fallo di confusione ripristinato da Gervasoni purtroppo autorizza questi. Mi rendo conto che è prestissimo la terza giornata, però è presto anche per reinventare il faro di confusione, non solo per ricominciare queste discussioni. Quindi è presto in tutti i sensi, e questo è un peccato, perché fa passare in secondo piano la bellezza di un primo tempo qualitativamente splendido come quello giocato da Lazio Juventus, e poi i meriti della Juventus che nel secondo tempo ha ripassato, no? Come il calcio sia un gioco collettivo e non un gioco individuale, perché sembrava negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che il calcio fosse Diego contro il resto del mondo. Il calcio invece è Juventus contro Lazio nella fattispecie, sicché se esce Diego ed entra Giovinco, che lo sostituisce al meglio, secondo me la Juventus ha trovato anche più geometrie, se vogliamo parlare dell'altra sera, poi non lo dico come valori assoluti, ha trovato più geometrie, più velocità, e non a caso ha vinto poi anche la partita. È ovvio che questa vecchia tentazione, questa vecchia logica secondo cui nel dubbio è sempre la squadra più potente che si avvantaggia in una decisione dubbia, purtroppo questa è una vecchia storia che ho l'impressione che non passi. Posso avere un suo giudizio sul Bari? Domanda Enzo. Ancora imbattuto nonostante le due trasferte di Milano e di Palermo, con vittoria accarezzata fino al 90esimo. Aveva fatto molta impressione alla prima giornata contro l'Inter, al di là dei demeriti dell'Inter in quel giorno, ma ha fatto impressione la calma e anche una parte di tattica usata quasi rugbistica, cioè lo spostamento del pallone, la trasmissione del pallone in orizzontale, sempre a cercare qualcuno smarcato dall'altra parte, in orizzontale ovviamente per mantenere il controllo, perché se la mandi in verticale contro il centrocampo e soprattutto la difesa dell'Inter la perdi, invece così hai più possibilità di tenerla. Ieri poi insomma, c'è stata anche una buona dose di fortuna, perché trovi il gol dopo due minuti su quella in quella piscina e diventa più facile difendersi, insomma, perché gli avversari fanno fatica ad attaccare. Certo, un po' di sostanza, qualcosa c'è, insomma, e quindi è una squadra che, pur essendo una neopromossa, se la può giocare tranquillamente fino alla fine, sulla base di come è partita. Giuseppe, provincia di Matera, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dottor Garanzieri, volevo sottoporre un quesito alla sua attenzione. Sì. Come mai alcune squadre italiane si ostinano a cercare portieri esteri dai nomi esotici e non affidarsi oramai alla scuola italiana, che secondo me è tra le più affidabili, insomma, a livello mondiale? Parlo dei vari Andújar, Muslera e quant'altri, buon ultimo Giulio Sergio, il romanista. La stessa Juventus, lei ha parlato di Mirante prima, sì. Aveva Mirante nel suo vivaio, l'ha mandato in giro per mezza Italia per prendere come secondo Manninger, per esempio. Gli ha fatto fare esperienza in questa maniera, e adesso Mirante è certamente un portiere più completo. La scuola italiana di portieri è storica, però la scuola italiana di portieri negli ultimi anni non ha dato moltissimo, e qualcosa sta cominciando un po' alla volta a rifiorire. Io non credo che ci sia un ostracismo nei confronti dei portieri italiani. Abbiamo parlato anche a lungo qualche tempo fa con Dino Zoff, che sosteneva, che confermava invece a suo parere la crisi di vocazione di portieri italiani, e la spiegava in un modo splendido, purtroppo splendido. Diceva cioè che essendo quello del portiere il ruolo più carico di responsabilità all'interno di una squadra, la crisi di vocazioni era che tutti i ragazzi preferiscono andare a giocare all'attacco, in difesa o a metà campo, dove è meno colpa tua. Mi era sembrata una bella spiegazione, tra l'altro poi confermata da molti responsabili di settori giovanili. Se parliamo di portieri, Lori da Milano domanda: ma sul gol di Mesto, secondo lei De Santis non poteva far nulla? Lori, io non so se certamente poteva fare di più. Può darsi che veda la palla partire con una frazione di secondo di ritardo, può darsi che sia impallato, ma l'errore clamoroso di De Santis sul primo gol, cioè, è che questo disgraziato, a parte l'errore poi dell'arbitro Tagliavento, ma De Santis in quel momento il Napoli è in 11 contro 10 e su un lancio lungo del portiere in 11 contro 10 il De Santis deve stare al limite dell'area o deve stare 3 metri dietro il limite dell'area. Questo è il piazzamento giusto, perché a quel punto lui è un libero in superiorità numerica, non è un portiere. Invece era agganciato alla linea di porta, un errore assolutamente clamoroso, quello sì. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno, volevo fare un intervento. Pronto, buongiorno. Dica, buongiorno. Volevo fare un intervento riguardo l'episodio di Mourinho e ricordare un episodio già successo nel passato con Ottavio Bianchi, allora allenatore del Napoli, quando il Napoli vinse lo scudetto, che si allontanò dalla panchina a partita non terminata e quindi dimostrava insomma una certa personalità anche Ottavio Bianchi come allenatore, anche Mourinho come lo è. Non terminata Antonio, non ci scommetterei, lui forse si riferisce a un Ascoli, ai festeggiamenti, sì. Ma se permette abissalmente comunque, non c'entra nulla proprio. Sì, comunque è sempre un comportamento, cioè, là Bianchi aveva appena vinto lo scudetto alla guida del Napoli e per evitare di essere coinvolto, ma soprattutto per evitare di farsi abbracciare da Maradona, secondo me occhio, scappò in spogliatoio. Stavolta mancava un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, quindi se permette un altro film. Sì, però mi ha anticipato la domanda, magari siccome Mourinho lo considero un bravissimo allenatore, molto preparato eccetera, anche con i media, ma vedo che si circonda sempre di giocatori bene o male che accettano il comportamento un po' particolare. Allora, di fronte magari a un personaggio così forte come Maradona, come si sarebbe comportato Mourinho, se è possibile l'accostamento e se è possibile avere una risposta? Ma non lo so, Antonio, non ho proprio la minima idea, sono anche epoche diverse. Io non credo comunque che Ibrahimovic avesse un carattere molto più dolce o molto più facile di quello di Maradona, aveva altri comportamenti, però mi pare che Mourinho, se c'è una cosa che sa fare, è riconoscere il talento, e in nome del talento poi si concedono delle cose, bisogna vedere quali e quante a seconda del comportamento della controparte. Giovanni ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io volevo una sua opinione circa una mia percezione. Ultimamente, guardando un pochettino dall'inizio del campionato, mi pare ho la percezione che si siano abbassati un po' i toni polemici, non lo dico riferito al fatto che non c'è poi nei confronti della Juventus quando succede qualcosa molta polemica, lo dico da interista, però noto che c'è un qualcosa di, come dire, un atteggiamento diverso. Ora mi chiedo, è una mia percezione, ci può essere qualcosa di vero, anche perché, cioè, meno polemiche, dice lei? C'è un atteggiamento meno polemico, mi sembra che ci sia da parte della stampa, dei giornalisti. Il fatto che siano andati via Kakà, Ibrahimovic, e che comunque si pensa che ci stiamo in qualche modo, stiamo diventando di seconda fascia, questo può essere motivo per cui non credo. Possa essere anche un senso di... Giovanni, non credo e poi soprattutto non mi pare ci siano meno polemiche. Ieri tra sabato sera e ieri non mi sembra che siano mancate, considerando che siamo solo alla terza giornata. No, è bastata una battuta di Mourinho sull'episodio chiave di Lazio, ma una battuta tra l'altro assolutamente innocua. Da classica legittima difesa, cioè a questa domanda non voglio rispondere, e lui l'ha tradotto in maniera diversa, dicendo che erano pronti i calamari in tavola. Beh, è bastato questo per scatenare, per scatenare Massimo Mauro a Sky ci vuole poco, ma insomma per scatenare gli arruffapopolo che hanno cercato di costruirci su chissà cosa. Quindi a me sembra che la voglia di polemica sia intatta, poi vediamo andando avanti con la stagione. Perché nessuno parla di Marchisio, che mi è sembrato il vero uomo nuovo della Juventus in queste prime giornate, e in queste prime giornate nella partita in nazionale in parte, ma soprattutto l'altra sera all'Olimpico? L'uomo nuovo nel senso di un centrocampista totale, completo, moderno, che ha qualità, che ha quantità, che ha l'intelligenza di farsi trovare al posto giusto, che non alza mai la cresta. Mi è sembrato, per essere un giovane, un giocatore un giocatore importantissimo. Però in questo sì siamo esterofili e ha ragione Giovinco, no? Giovinco ha detto se fossi stato brasiliano o argentino avrei già giocato molto di più. Beh, insomma, io ho l'impressione che tutto sto, con tutto rispetto per Diego, insomma, sembra che la Juve sia solo Diego. Non so, se qualcuno avesse voglia di dare un'occhiata a come sta giocando Marchisio, magari potrebbe ripristinare un po' di senso delle proporzioni, senza nulla togliere a Diego, ma aggiungendo molto a Marchisio in compenso. Massimo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Lei probabilmente ha la sfera di cristallo, perché io da juventino volevo fare l'intervento che lei ha fatto poc'anzi su Marchisio. Allora mi dispiace, al di là delle polemiche al di là delle polemiche sul gol o il presunto gol fischiato prima, fischiato dopo, il mio intervento era proprio di quello che abbia, che comunque la Juventus quest'anno con un giocatore giovane del vivaio ha un, veramente un uomo in più, senza nulla togliere a Diego e senza nulla togliere a Giovinco, e ha trovato anche magari qualcuno che pur in difficoltà come difensore, come Caceres, ha trovato un gol al volo che ecco quasi lì siamo già meno d'accordo, perché ho visto segnare anche Grigera l'altro anno e mi sembra che Caceres sul piano difensivo sia esattamente come Grigera, se non peggio, però sono passate soltanto, era soltanto la prima partita in cui lo si vedeva, e quindi questo è ampiamente rivedibile come giudizio, come valutazione. Così a pelle non mi è sembrata la sua una gran partita, poi si è fatto trovare al posto giusto, nel momento giusto, ed è un conto. Se parliamo di Marchisio, parliamo di un altro livello, insomma, perlomeno di un altro livello di maturazione e di inserimento in squadra. Gianni Cussini ricorda che il 3 ottobre il Bologna compie 100 anni e invita a ricordare come si deve la ricorrenza. Già memorizzato, caro Gianni, e quel giorno, o comunque in quei giorni, ci farà compagnia uno dei tifosi più illustri del Bologna, che tra l'altro lei si chiama Gianni, è un suo omonimo, e che mi ha già promesso la sua straordinaria partecipazione. Gianni, un altro Gianni da Agrigento, buongiorno. Buongiorno, Marchisio un nuovo Tardelli intendo come gioco. Adesso, siamo sempre lì, cioè, vediamo come gioca Marchisio, prendiamo atto della sua grande maturazione, dei suoi progressi eccetera eccetera, poi se cominciamo a chiamarlo Tardelli magari non gli facciamo del bene. Piccolo Tardelli, piccolo. Non ha il cambio di passo, Tardelli ha un modo più rotondo. Speriamo che arriva a livelli di Marco Tardelli, grande. Vabbè. Comunque la mia domanda era un altro, volevo dire l'inutilità dell'Inter di comprare sia Milito e tu che Snyder, visto che c'è Francesco Vera come grandissimo regista, Guido Rossi ce ne sale benissimo la Serie A, Serie B, e Colline che fa segnare gol in mano per tempore il gioco all'Inter facendo vincere 2-3 ricordi. Grazie a lei. Gianni ha salvato la statistica, perché almeno uno come lei in ogni puntata ci vuole, in ogni puntata del lunedì, insomma, no? Quindi le ripeto, grazie non tanto a nome mio ma a nome della statistica. Torniamo in onda e ripassiamo la storia con l'aiuto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 settembre 1986. Dopo 10 anni sulla panchina della Juventus, Giovanni Trapattoni fa il suo esordio in campionato alla guida dell'Inter a Firenze, ospite del neopromosso Empoli alla prima assoluta in Serie A. È il debutto per l'ex tecnico bianconero e da incubo. I toscani passano a sorpresa con il giovane Osio al 37esimo e difendono il vantaggio fino alla fine. L'Inter però si rifarà la domenica successiva a San Siro con un 4-0 al Brescia. I nerazzurri chiuderanno poi il campionato al terzo posto, alle spalle di Napoli e Juventus. Per costruire l'Inter dei record, Trapattoni avrà bisogno di altre 2 stagioni. Luca ha chiamato da Lucca, buongiorno. Buongiorno Gigi, ti do del tu perché di età sono un po' più giovane forse, no? Amo molto questa trasmissione per l'obiettività, l'oggettività e la sportività nel senso di cultura sportiva che spinge molto in avanti, quindi quando posso sono in macchina per lavoro l'ascolto volentieri. E proprio sposando un po' questi concetti, vorrei tornare sull'argomento di quel tifoso, mi sembrava fosse della Lazio, che ce l'aveva con Gervasoni per il gol annullato. Sì. Io tornando, non vorrei tornare alla caccia alle streghe nei confronti degli arbitri, perché siamo usciti 3 anni fa da un periodo abbastanza burrascoso. Non sto qui a dire giusto o non giusto quello che è successo, se hanno pulito o non pulito, perché non tocca a me chiaramente dirlo. però tanto precisare, venendo un po' dal mondo del calcio, anche se piccolo, giovanile, eccetera, che nel momento che un arbitro, indipendentemente da Milan, Juventus, Inter, Lazio, eccetera, fischia, in quel momento lì quello che capita dopo il fischio dell'arbitro non ha nessun senso. L'arbitro non può prevedere quello che succede dopo il suo fischio. Errato o giusto che sia, perché non sto qui a dire se il fallo c'era o non c'era, può essere sbagliato, ma nel momento che un arbitro fischia, oggettivamente quello che succede dopo non ha più senso. Questo intendo dire. Se avesse fischiato dopo il gol di Mauri, benissimo, ma avendo fischiato prima, tutto quello che succede dopo non ha più senso. È lì il problema, è lì il problema però, Luca, Luca, cioè nel senso che lì siamo proprio al palla contesa, palla alla difesa, no? Sono d'accordo, ma nel momento però, torno a dire, l'errore può averlo sul fallo, però capire dopo ha annullato perché c'è stato il gol della Lazio, questo è un errore di fondo, non è così. Per lui ha fischiato un errore su un fallo, probabilmente, non prevedendo che dopo poteva essere un gol, calcio d'angolo, rimessa laterale, quello che poteva essere. Ma insomma, io ho visto però tutto il metro di valutazione di falli della serata, mi sembra che fosse in linea con quella valutazione. Quindi ripeto, è prestissimo per questi discorsi, per l'amor di Dio non cominciamo, però se vogliamo assolvere, cioè se vogliamo dire che il tifoso della serie di prima sta esagerando, siamo d'accordo, visto che siamo anche alla terza giornata. Se però lui dice ma se è tutta la vita che va così con le grandi squadre, beh insomma, proprio dargli tutto sto torto io non me la sento, non solo sulla base di quell'episodio, ma di un paio di scarpate a metà campo, una di Camoranesi dalla parotomia, insomma, che nemmeno sanzionata, insomma, mi è sembrato che ci fosse un po' di doppio pesismo di valutazione, come purtroppo capita, per fortuna non capita più con la frequenza con cui capitava in passato, ma capita ancora, e tra l'altro è quello che ha fatto arrabbiare i laziali più ancora dell'episodio. Enrico da Roma, buongiorno. Buongiorno Garantini. Dica. Io mi ricollego proprio al discorso che stava facendo in questo momento. Io ero allo stadio sabato e ci siamo arrabbiati per due pesi e due misure. Si è proprio vissuta questa cosa. Gervasoni era inadeguato. Purtroppo l'errore è nel designatore. Mandare uno così giovane ad arbitrare una partita comunque importante, sia per la piazza che per l'anticipo serale. Secondo me è stato un errore. Gervasoni fischiava e scappava. Non dava neanche la possibilità di spiegarsi con i giocatori. Beh, questo... I falli di Camoranesi sono stati... Beh, insomma, adesso no, però, perché se la mettiamo così sembra che l'altra sera sia stata consumata qualcosa di premeditato. Non è assolutamente così. Gervasoni è un arbitro giovane. I giovani promettenti, se non provi ogni tanto a designarli per delle partite di livello superiore, evidentemente non matureranno mai, arbitrerà sempre le partite importanti, le arbitrerà sempre la stessa casta, e cadiamo in un errore ancora peggiore. Bisogna avere il coraggio invece, i giovani che promettono, di designarli. Poi se sbagliano, evidentemente avanti un altro, perché vuol dire che quello per il momento ancora non è pronto per quella, non è pronto per quel tipo di impegno così, così difficile. Però finché non provi non puoi sperimentare. Da Milano, Marco, buongiorno. Dica. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Mi dispiace dover tornare ancora sull'argomento Lazio-Juve. E allora non ci torni, che ne cerchiamo un altro, no, dai. Purtroppo devo tornarci. È vero, probabilmente il gol era da annullare. Però anche due fuorigiochi fischiati da Mauri quasi solo davanti al portiere sono stati inutili. Allora diciamolo subito, che qualunque cosa va a favore della Juve, diciamo subito che la Juve è tornata a pagare le partite, apriamo un altro processo e via discorrendo. Torniamo sempre al solito discorso: quando queste cose vanno alla Juve vuol dire che gli altri sono a favore, chissà cosa c'è sotto. Ma, il signor Totti non dovrebbe neanche più giocare in campionato. Ecco, Marco, ero un po' preoccupato, dato che c'era stato un intervento delirante da Cireale, figurati in un senso, figurati se non arrivava un altro, se non ne arrivava un altro che non gli faceva eco, perché da noi nel nostro sport preferito l'emulazione è sempre la molla che spinge, no? I migliori. E quindi questo, ripeto, questo intervento era un intervento di questo genere, era ampiamente atteso. Le segnalo per la cronaca che, perlomeno da questa tribuna, negli ultimi 2 o 3 anni semmai mi sono occupato e ho sottolineato i favori che venivano fatti a un'altra squadra con la maglia a strisce, ma se lei nel frattempo, come dire, era distratto oppure preferiva altri programmi, evidentemente aveva tutto il diritto, anzi il dovere morale e civico, di dire quello che invece ha detto adesso. Michele Catania, buongiorno. Sì, salve, volevo fare 2 domande. Uh-huh. La prima, ho notato sabato sera nell'anticipo una caratteristica che, diciamo, fino a poco tempo fa si assegnava alle piccole, quelle di stare tutti dietro la palla. Io ho notato la Juventus che molte volte in fase difensiva aveva tutti i giocatori dietro la palla, il che vuol dire che evidentemente il calcio, diciamo il famoso catenaccio o la fase difensiva, sta prendendo sempre più piede, cioè si pensa molto a non prendere gol più che a farlo. Un'altra considerazione, proprio da questa, dicevo, ma i nuovi allenatori, come il nostro del Catania, che è il più giovane allenatore in Serie A, che tempo ha secondo lei in questo nuovo calcio per andare a capire come funziona il campionato e come impostare le partite di calcio? Che tempo ha, in che senso? Cioè quanta esperienza è nella caduta della linea? Tempo poco, ma non oggi, nel quello che lei chiama nuovo o vecchio calcio, nel calcio di sempre, perlomeno in Italia, tempo non ce n'è. Chiunque oggi si ritrovi a... il Catania finora, insomma, non ha fatto punti e non ha fatto molto nemmeno, poi gli è girata storta per esempio ieri, ma è andata così. Io non credo che Azzori, qualsiasi progetto la società abbia fatto con lui, non credo che Azzori abbia più moltissimo tempo per cominciare a fare punti, ma questo vale anche per Gregucci a Bergamo, la cui Atalanta non sta giocando peggio di quella che giocava l'anno scorso con Del Neri, tolte le giornate migliori della stagione passata, ma credo che per tutti e due il tempo non che stia scadendo, ma si sta accorciando. Quando lo scorso anno Allegri a Cagliari perse le prime 5 partite, il dubbio era: ma come mai che Cellino quest'anno non l'ha ancora licenziato, visto che era una delle sue specialità? Beh, insomma, ha tenuto duro e ha avuto ragione. Chissà che non vada così anche quest'anno a queste due società. Velocemente, da Fermo ha chiamato Saverio. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare di Lazio-Juventus, ma non come se ne è parlato fino adesso. Naturalmente, sì, vedendo la partita io mi sono arrabbiato da tifoso laziale, però volevo mettere in evidenza la grande prova della Lazio e di un giovane che si chiama Diakité, che dovrebbe essere forse maggiormente seguito dagli organi, insomma, di informazione, che è un centrale difensivo molto molto forte. Tutto qui. Sì, senza nemmeno dimenticare le assenze contemporanee di Zarate e di Rocchi, perché un conto è affrontare la difesa della Juve non straordinaria per agilità con due come Rocchi e Zarate, un conto è con Cruz e Foggia, che fatalmente gli gira molto largo. È finito il tempo per oggi, anzi è già scaduto da qualche decine di secondi. Sì, che grazie a Carmelo Lauricena in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a tutti voi a domani in chiave europea.